Compostela, la storia segreta del cammino dei pellegrini in Europa, di Rafael Lema Mouso, tradotto da Devana. Alla ricerca dell'isola dei Beati. In pieno secolo XXI, solo un esercizio di interessato cinismo e una buona dose di incultura cosciente fa sì che si continui a parlare di tomba dell'Apostolo Giacomo. La città di Santiago de Compostela e il suo cammino hanno forza indipendentemente dalla menzogna che li ha resi celebri. La Costa da Morte era per gli antichi l'ultimo tratto di terra conosciuta, finale di un itinerario segnato in cielo dalla Via Lattea e dall'essere il luogo dove si collocava il sole. La visione del mitico capo di Finisterre e del santuario ancestrale del culto alle pietre di Muscia era la pietra miliare di questo pellegrinaggio, una corrente segnata da una trascendenza simbolica astrale molto antica, ma dal Medioevo collegata alla tradizione giacobea. La meta finale del vero cammino è il capo Finisterre e il santuario della barca in Muscia. È il cammino post-giacobeo di Finisterre-Muscia, la parte più occidentale della provincia di Corugna, anticamente denominata Nemancos, nome celtico che significa il paese dei boschi sacri. Cominciamo il cammino della vera conoscenza uscendo da Compostela e dirigendoci verso Padrón. Dalla cattedrale alla chiesa di Santiago in Padrón ci sono 20 chilometri di strada. Padrón e Noia in età medievale furono protette dai cavalieri templari. Muscia e Finisterre possono essere i due pilastri dell'opera di trasmutazione alchemica che inizia nelle cellule durante il pellegrinaggio. Le due colonne massoniche, Yakim e Boaz, Muscia, patria del vento, e Finisterre, fine del cammino delle stelle, denti della Via Lattea. Sotto il cielo di Padrón traccio il mio itinerario sulla mappa. Dalla cattedrale sono arrivato a Noia e da qui a Muros, dove ho lasciato l'auto e inforcato la bicicletta in cerca di questa Venere preistorica che si prolungò in Iside e nella Vergine Nera. Voglio iniziare la mia opera il giorno di San Giovanni, il 24 giugno, il fuoco di metà anno, e terminarlo a San Giovanni del 24 dicembre, l'altra data in cui rimanda il fuoco all'inizio dell'anno. Le due date che riempiono di luce il timpano del monastero benedettino di Moraime, il punto centrale tra Muscia e Finisterre. Tra i seguaci di Gesù c'era l'apostolo Giacomo, Santiago in spagnolo, detto il Maggiore, pescatore, figlio di Zebedeo e di Salomè e fratello di Giovanni Evangelista. Le cronache che parlano della scoperta del sepolcro sono centinaia di anni posteriori ai fatti che narrano, e non ci sono testimoni contemporanei. Le circostanze della supposta scoperta del sepolcro di Giacomo non appaiono che nel 1077, però già nel X secolo lo scrittore arabo Al-Ghazal de Jaén parlava dell'importanza della via di pellegrinaggio a Santiago, il cammino per il riconoscimento di Santiago come evangelizzatore e protettore della Spagna, è pieno di confusione e punti oscuri. Senza dubbio, prima del secolo VII nessuno aveva mai parlato della predicazione di Santiago Giacomo in Spagna. Sono molti gli autori che, criticando la improbabile veridicità della predicazione dell'apostolo in Spagna e del ritrovamento del suo corpo in un bosco di Galizia, non dubitano che la forza del mito abbia basi millenarie molto più profonde. Non ci fu predicazione, né c'è alcun corpo nella presunta tomba. Questo ha più dell'aspetto falsario e lucrativo del commercio delle reliquie nel Medioevo. Questa fu la vera traslazione, segnata da un progetto di mutuo sostegno tra la Chiesa cattolica galaica e il potere reale asturiano, la parte più cattolica della Spagna. Le Asturie confinano con la Galizia. Da Oviedo, la capitale politica asturiana, a un reliquiario pagano romano in un bosco sacro celta. Il viaggio vero era il Finisterre, seguendo la Via Lattea. Questo cammino delle stelle è disegnato dalla mano divina in cielo, la discesa del sole nel mare all'estremo del mondo conosciuto, il luogo più vicino al paradiso. All'epoca della nascita del mito giacobeo era normale la confusione tra le vite dei santi di uguale nome, e già perché ci sono due Giacomo, due Santiago nella vita di Gesù. Uno, Giacomo il minore, lo si conosce negli scritti esseni e giudaici come fratello di Gesù, capo della Chiesa di Gerusalemme ed erede di Cristo. Primo vescovo di Gerusalemme che indossò una mitra di stile egizio. A questo personaggio gli esseni attribuivano l'eredità della linea di sangue di David dopo la crocifissione di Gesù. È il maestro di giustizia esseno, l'uomo che lottò per conservare la vera parola e ortodossia messianica. Questo emerge dalla scoperta dei rotoli del Mar Morto e del Vangelo di Giuda, che stanno dando filo da torcere alle molte menzogne di cui è imbastita la storia ufficiale. Giacomo il Minore era rivale di Paolo, Saul. Negli apocrifi si parla di Giacomo come di uno dei due pilastri, quello sacerdotale, insieme a Gesù che rappresentava il pilastro regale. Nel libro segreto di Santiago, secondo gli Esseni, Giacomo il Minore era la stella dell'alba in un rapporto bipolare con Gesù. I giudei, Esseni e gli autori dei documenti di Qumran sono membri di una stessa casa, la prima chiesa denominata il Cammino. E Giacomo era il primo tra i seguaci puri di Gesù, non ellenizzati come Paolo. I Nazirei, primi seguaci di Cristo, nascosero i loro scritti sotto l'altare del Tempio di Gerusalemme dove furono trovati. Centinaia di anni dopo, dai Templari, i quali continuarono questa tradizione segreta e rituale. Il successivo incendio della biblioteca di Alessandria aveva come obiettivo la distruzione di tutto il sapere non in linea con il dogma dell'emergente Chiesa cattolica, però qualcosa si salvò dall'occultamento e distruzione dei testi sacri dell'epoca di Gesù. San Patrizio era ariano e non credeva alla nascita di Gesù da una vergine né alla sua natura immortale e divina. Cominciò il suo lavoro di predicazione tra i Celti irlandesi e britanni intorno al 432. Dopo le invasioni barbare, nacque, attingendo da questa antica tradizione, la Chiesa cristiana celta in Irlanda, Scozia e Inghilterra settentrionale. Da lì si espanse fino ad arrivare alle coste di Galizia, dove ancora oggi rimangono testimonianze storiche della presenza di tale chiesa. La chiesa celta irlandese era giacobita, non paolina, e fino al 664 d.C., col sinodo di Whitby, non entrò nella circoscrizione di Roma, poiché non accettava il dogma della nascita virginale e della divinità di Gesù. Questa, considerata da Roma un'eresia, aveva radici profonde in Galizia e nell'Europa della tradizione di Giacomo il Giusto, come quella catara. Giacomo il Minore, detto il Giusto, era considerato uno dei due pilastri della vera e autentica parola messianica. Il pellegrinaggio per il Cammino delle Stelle è l'arcobaleno celtico del dio Lug, ora convertito nel Cammino di Santiago a seguito della sparizione delle antiche divinità. È la via che porta a una regione mitica, quale il paradiso terrestre, il cammino dell'Ovest, al mare dei morti, delle antiche leggende celtiche delle origini. In tempi preistorici esistettero, attivi ai tempi dei Celti Galli, quattro differenti cammini di pellegrinaggio tra i popoli di Occidente. Erano strade anteriori al celtismo, tradizioni conservate fino alle lotte romane contro il druidismo e alla cristianizzazione ufficiale dell'impero. Una di queste era la via alla fine del sole, al Finisterre. Il Cabo Finisterre era chiamato Promontorium Celticum ed era, per i Celti, un luogo di pellegrinaggio. Persino il primo pellegrino biblico, Abramo, dalla sua terra sumera di origine partì per la via del sole verso un occidente bagnato dal mare intorno al 1800 a.C. e dalla stessa area di origine giunsero anche i Celti dopo aver attraversato l'Europa, stabilendosi nei suoi vari finisterre. Gli abitanti dell'attuale costa corugnese conservano affiliazioni con popoli di tradizione celta. I Celti Galli giunsero in Galizia intorno al secolo VII a.C., ma prima ancora una migrazione dall'Asia, 30.000 anni fa, popolò l'Europa fino al ponente estremo. Nella tradizione misterica, poi divenuta massonica, Santiago era assimilato al maestro Joachim e l'apparizione della Vergine nella barca a Muxia servì a rendere compatibile con il cristianesimo il maggior santuario pagano di pietre magiche di Galizia, situato a Muxia, appunto. Nei riti segreti di iniziazione delle corporazioni medievali e nelle cerimonie templari si citava l'esistenza di uomini investiti in modo soprannaturale, maestri di opere discendenti da un santo fondatore a sua volta incaricato dai grandi maestri sconosciuti che giunsero alle coste in tempi immemorabili, creature a metà tra gli dèi e gli uomini. Dove finisce la terra, dove finisce il cammino, davanti alle acque oscure dello sconosciuto e lontano Alain, più in là, lì stanno le impronte degli antichi padri e delle antiche madri. Ci sono autori che affermano che il cammino de Santiago è il percorso dell'oca, la via spiraliforme del famoso gioco creato dalle confraternite dei fratelli costruttori, cammino che sbocca nel paradiso occidentale degli indoeuropei. Celti, Svevi, Romani e popoli del Mediterraneo, culla della nostra cultura. Un viaggio di creazione a spirale, come spirale la Via Lattea riflessa nel cielo, il cammino stellare che porta al più in là, all'Occidente. Quella spirale, scolpita in molti templi del cammino, ma anche nei petroglifi di Galizia e Bretoni, è la ricerca del centro simbolico del potere partendo dal sole. La vittoria sopra lo spazio-tempo che percorre il cammino delle stelle. Castore e Polluce, figli di un cigno e di un'oca, iniziano il cammino verso il paradiso centrale, situato alla fine della terra, al Finisterre. Il cammino al Finisterre parte da Compostela e attraversa Ames, Negreira, Santa Comba, Masaricos, Dumbria, Athée, Corcubión, Finisterre e Muxía. È chiaro che in Compostela non c'è mare e che la conchiglia è un simbolo marino. La nostra via inizia a Padrón e poi si dirige a Noia. Da Padrón a Noia ci sono 30 chilometri. Lungo la costa avvisteremo il promontorio della fine del mondo. Qui si dice che giunse la barca dell'Apostolo. Noia fu punto di sbarco per i pellegrini che giungevano via mare. Padrón fu un luogo templare e per di qui passano due cammini giacobei, il portoghese e il marittimo. Ancora oggi nel cimitero di Padrón vi sono simboli iniziatici pagani. I segni templari si scorgono sulle pareti della collegiata, croci celtiche, solari e palmate di vario tipo. Vi è inoltre una ruota iniziatica templare che segue il movimento del sole in cielo e il suo cerchio immaginario, spiraliforme, come un labirinto in terra. Le croci originariamente erano 27, numero simbolico e magico che dà come somma 9. Inoltre vi sono croci cerchiate in stile cataro. Nella chiesa di San Martin vi è un diavolo scolpito in una colonna, come a Rennes-le-Château in terra catara, nella chiesa di Santa Maria Maddalena è un diavolo che regge l'acquasantiera. L'ultima cena del monastero di Moraima in Muxia presenta un apostolo Giovanni come bambino. C'era infatti, per ratificare i legami tra Galizia e catarismo, una tradizione catara che parlava dell'arrivo nel sud della Francia di Miriam di Magdala con Giovanni. Secondo questa tradizione, Miriam non era affatto una prostituta, bensì una donna colta e ricca, non giudea. Giovanni e Miriam, incinta della discendenza di Gesù, erano considerati i veri depositari del messaggio messianico segreto. L'artista di Moraime giunse lì dalla terra catara e lì visse i suoi ultimi giorni. Il Giovanni di Moraime lo chiamano El Neno, il bimbo, forse il figlio segreto, il discendente del lignaggio reale di Gesù? A Noia c'è la chiesa di Santa Maria a Nova, un luogo sacro il cui terreno fu portato da Oriente come il sole e come i pellegrini che vi giungevano. Nella terra di Noia, nell'attuale comune di Finisterre, presero stanza i grandi signori imparentati coi templari, ma i primi pellegrini che lasciarono un segno furono di tradizione celtica. Su questi si innestò la tradizione ermetica e cabalistica, un trifoglio di quattro foglie attraversato da una croce, simbolo delle quattro età e del ciclo solare. Il trifoglio è un simbolo della cultura celtica e dei suoi druidi. Vi sono poi, in due circoli diversi, due libri aperti con un dito che segnala. Simbolo del quadrilatero solstiziale che indica l'alba del sole in estate e l'ocaso in inverno. La stessa mappa solare si ripresenta in Muscia, Moraime e Finisterre. I Templari seguivano una propria via e la mantennero nei secoli. Questa via metteva in comunicazione i tre siti di Noia, Padron e Finisterre. Finisterre è un luogo gemellato con il suo omonimo Bretone. Senza dubbio, i due siti sono sorprendentemente simili come clima, paesaggio, leggende celtiche, culto delle pietre e dolmen, croci lungo il cammino e soprattutto la conservazione in entrambi i luoghi delle due lingue peculiari. In Bretagna si parla il bretone, che non ha nulla a che vedere col francese, che non è il castigliano, ossia la lingua ufficiale spagnola. La chiesa irlandese celtizzò la Galizia in epoca barbara. Lungo la parte finale del cammino, verso la Costa da Morte, si trova Duyo, un tempo Dujum, antica capitale dei Celti Neri. Finisterre e Muscia erano invece parte dell'arcivescovado di Compostela. Inizialmente si dirigevano lì commercianti e pellegrini inglesi. La chiesa compostelana approfittò di questo movimento nei due comuni sui quali aveva giurisdizione. Vi sono croci templari scolpite sui muri della chiesa di Finisterre, croci palmate in cerchi con 8 raggi, gli stessi simboli che appaiono in Padron. L'ordine templare marcò, coi suoi simboli, i siti emblematici del cammino dalla Francia fino a Finisterre e le entrate dal mare in Galizia. Furono i signori di questa terra, i conti di Traba, ad attrarre qui i templari nel secolo XII, ed è terra dei Traba la parte finale del cammino del sole verso il paradiso. I templi, dove si adoravano vergini scure di antica tradizione, come Finisterre, Noia, Muscia, Moraime, sono ora centro di relazioni fantastiche e di meravigliose apparizioni di Santa Maria e dei Santi, tra virgolette, che non sono molto differenti dai racconti di tradizione celtica di cavalieri e draghi, maghi e streghe. Le vecchie immagini di Madonne Nere spariscono dalle chiese, ma i riti e le leggende permangono. Compostela e Finisterre non nascono dal nulla e non sono mera invenzione dei monaci, bensì sono trasformazioni di luoghi di potere tellurico conosciuti da sempre. La leggenda giacobea fu letteralmente fabbricata dai monaci nel secolo XII. I luoghi di culto e i grandi santuari gallieghi sono gli stessi che migliaia di anni prima del cristianesimo erano già lì, ospitando sorgenti di acqua sacra sotto gli altari. Ancora oggi c'è la tradizione e l'opera delle meighe, sciamane e guaritrici che curano i corpi e le anime, esse continuano ancora oggi la loro opera dopo migliaia di anni. Finisterre è il portico della gloria della mitologia europea, è uno spazio millenario e universale, sia fisico che della mente. I greci credevano non solo in un paradiso ultraterreno, ma anche in un vero e proprio luogo paradisiaco o terreno, abitato, più felice di quello che conoscevano. I paradisi dell'antichità si ubicavano a occidente, furono trovati da iniziati e da interi popoli. I navigatori che trovarono l'isola di Utopia nell'omonimo racconto di Tommaso Moro partirono dalla costa portoghese diretti a occidente e così pure i navigatori che trovarono l'isola di Ben Salem nella Nuova Atlantide di Francis Bacon fecero vela verso occidente partendo dalle coste peruane rivolti verso il Giappone e la Cina. Si veda questo in Economia al futuro senza denaro di Devana. I Celti seguirono il corso del sole, come pure il popolo degli Ovestrimni, i primi abitanti della Galizia che accolsero i Celti stessi. Gli Ovestrimni erano scultori di petroglifi. Un altro nome dell'antica Galizia a quei tempi era Ofiusa, terra di serpenti. La cultura megalitica ci parla di un cammino migratorio che dai Pirenei scendeva al fiume Tago in Portogallo e saliva alla costa occidentale peninsulare. I Galati del Mar Nero erano celti come gli Artabri della contrada corugnese. Era una grande federazione celtica quella che arrivò fino a queste terre e affrontò Giulio Cesare. Era un lungo viaggio dal Mar Nero fino al Finisterre gallego. Ma d'altronde sembra che i Celti iberici siano i più antichi d'Europa. Tribù partite dal Mar Nero, dalla penisola anatolica, dal mare di Marmara, una regione dei Celti Galati che in varie ondate inviarono le loro migrazioni nell'occidente iberico. Il paradiso per i popoli celtici, come i Neri o i Galati, stava più in là del Sol Ponente, più in là della settima onda che ancora oggi si richiama in alcuni riti officiati durante la notte di San Giovanni. Monte mitico, considerato l'Olimpo Celta, è il Pindo che sorveglia la Ria de Corcubión e il promontorio di Finisterre. Il Pindo è il monte sacro ai Celti Neri del Neolitico. A Muscia c'è un altro monte sacro, il Monte Corpigno, che domina la città e il santuario da Barca. Inoltre il Monte San Roque ospita un bosco sacro celta. Sono veramente tanti nella regione i monti sacri pagani oggi sovrastati da una cappella cristiana. Finisterre ha due grandi monti ai suoi lati, Offaccio e San Guillermo, pieni di pietre sacre pagane, come Aspedra Santas e a Fonte dos Sete Picios. Le moderne tappe della peregrinazione post-giacobea in Galizia ripercorrono le antiche visite celtiche a Lara Solis. Santiago de Compostela fu un importante centro viario romano situato su un luogo sacro, una collina orientata all'ovest, alla nascita e confluenza di due fiumi. La leggenda dell'interramento dell'apostolo in una proprietà della mitica regina pagana Lupa si può spiegare solo attraverso l'importanza religiosa di quella collina, che era un bosco sacro dedicato alla divinità della luce, Lug o Jupiter che fosse. Il camminante, la camminante che giunge qua deve morire, dimenticarsi di ciò che fu e iniziare il rituale di trasformazione. Per questo pellegrini e pellegrine germaniche bruciavano i loro indumenti al Cabo Finisterre. Ci troviamo in una via terrestre che è il riflesso di un cammino stellare, un canto di comunione con la natura, una ricerca e un incontro. Dice una cantica popolare che termina il suo pellegrinaggio solo colui, colei che arriva a Finisterre. O che vai a Compostela, fai o non fai romeria, se scega o non a Finisterre. Il Cristo di Finisterre è molto simile a quello della Sindone di Torino, è avvolto in un lenzuolo di origine templare e nella cattedrale di Compostela c'è il terzo Cristo che si conserva simile ai due gemellati. Anche nella chiesa di Moraime e in quella di Finisterre, come nella colonna del portico della gloria della cattedrale compostelana, vi è una croce all'ingresso sulla quale si appoggia la mano destra. Inoltre, dietro al Cristo di Finisterre, vi è una veduta di Gerusalemme con il sole, la stella Venere, le rovine del Tempio di Salomone, quelle rovine nelle quali i templari cercarono e trovarono le misteriose reliquie che li resero ricchi e pericolosi. Dentro, nella chiesa di Finisterre, appare scolpito, come a Noia, un altare astrale dedicato ai camminanti. Il percorso, inciso sulla pietra, è rotatorio. Se anche non ne sono consapevoli, i camminanti e le camminanti stanno compiendo un rito di comunione con la Terra, unendo i due movimenti del pianeta, traslazione e rotazione. Il Cristo finisterrano ricorda Jupiter. Fu qui che i romani installarono l'ara del culto al Sol Invictus che si celebra il 25 dicembre. I territori dei boschi sacri celti erano pieni di tunnel e grotte che interessarono persino Hitler. A questo proposito, Duio è molto particolare. Per arrivarvi bisogna attraversare un fiume, un ponte e una fonte. L'acqua che inonda il villaggio, quella del fiume che divide il regno, ci parla degli attributi dell'altro mondo. Il mezzo acquatico è una via di collegamento. I Celti usavano i laghi come santuari, l'idea dell'acqua come barriera per ciò che è alieno non è qualcosa di specifico delle culture occidentali preromane. I romani giungono in Galizia dopo aver attraversato il Lete, il fiume dell'oblio. Attualmente non esiste in Galizia alcun santuario cattolico sorto su un precedente sito sacro pagano che non abbia una sua fonte oggetto di culto ancestrale e di devozione popolare, fonti che scaturiscono da sotto l'altare. L'antica cappella di Guadalupe in Ponte d'Oporto sacralizzava un luogo rituale di acque sacre e l'attraversamento di un ponte collegato al pellegrinaggio al santuario da Barca. La chiesa romanica di Sant'Anna de Chavigna, accanto a un ruscello, ci parla di una Ana o Shana, divinità delle fonti. Il nome è stranamente simile a Iana, il termine con cui la cultura pagana sarda definisce le fate e gli spiriti tutelari delle rocce. I monaci tentarono di cristianizzare questo sito dedicandolo a Santa Maria, come pure il sito rituale celtico ancestrale di Ascaldeiras do Castro, a Muscia, dove fu costruito un romitaggio. Fu da un bosco di idoli indigeni che nacque Compostela. Per poter attraversare le acque magiche dobbiamo usare barche straordinarie. Santiago arriva in una barca del più in là. E con lui in barca arrivarono molti santi cattolici. All'arrivo del Sant'Uomo, in una barca di pietra, è stato vincolato anche l'antico santuario gallego di San Andrés de Teixido. La via fu aperta 30.000 anni fa da ondate di camminanti che seguivano le stelle, il cammino che portò a Occidente le genti dell'Est in epoca megalitica. Tutti furono pellegrini al Finisterre, anche i Celti. Il tempio di Muscia è dedicato alla Vergine della Barca, un'oscura sopravvivenza di riti pre-cristiani, una forza primitiva ancorata ad un universo simbolico ancestrale. Muscia è il cuore di Nemancos, il bosco sacro celta. Uno dei luoghi più emblematici della Costa da Morte è il santuario che sorge sulla penisola della Ria de Camarinas, ai piedi del Monte Corpigno, di fronte all'oceano. È la vecchia terra di Nemancos, la Trastamara, che co Finisterre costituisce la vera fine del cammino giacobeo. La tradizione catara in queste terre fu portata dai trovatori eredi dei grandi bardi occitani, discepoli di Maddalena e di Giovanni, il fratello di Giacomo. Questo significherebbe che Muscia e dintorni possedevano una via di pellegrinaggio diretta a Santiago, distinta dal cammino ufficiale attuale. Questa via terminava al santuario da barca di Muscia. Nel Medioevo, Muscia aveva pellegrini propri che andavano in visita al santuario e non era legata ad altre tradizioni, esempio questo di una corrente pellegrina galaica pre-cristiana. La Pedra de Abalar, antico santuario pagano, è l'emblema principale di un culto delle pietre e degli elementi. Muscia fu confermata come punto focale del pellegrinaggio nel territorio, precisamente il luogo dove il mare, la natura, gli elementi e gli antichi riti soppiantarono la dottrina. La Pedra de Abalar di Muscia è la pietra rituale più antica di tutta la Galizia e il centro di un santuario tellurico ancestrale. Insieme ad Abalar vi sono la Pedra de Cadris, la Pedra de Timon e la Pedra de Namurados, da sempre collegata ad antichi riti di fertilità. Le apparizioni di dame che salivano dal mare furono mutuate dalla Chiesa Cattolica direttamente dalle leggende celtiche. Da qui la leggenda dell'Apostolo Giacomo che giunse in questi lidi su una barca di pietra. Le donne celtiche dell'altro mondo avevano il compito di sostenere gli eroi, gli eletti. Le imbarcazioni di pietra, cristallo, bronzo o argento erano, secondo le mitologie irlandesi, i mezzi per attraversare l'altro mondo. Una imbarcazione rituale rafforza il carattere del luogo sacro. Solo con una barca si può raggiungere il più in là.